Con Stefano Finesi di Teodora Film per presentare il film Girl di Lucas Daunt in uscita in sala giovedì 27 settembre. Stefano, ben trovato. Ciao Federico, ciao a tutti. Il Presentacelo. film è stato uno dei film caso dell'ultimo Festival di Cannes, ha vinto quattro premi, tra cui la Camera d'Or, che è il premio che si dà ai registi esordienti. E insomma, noi speriamo, e probabilmente sarà così, che diventerà un caso anche in Italia. La storia è quella di Lara, un'adolescente con la passione della danza. Insieme al padre e al fratellino si è trasferita in una nuova città per frequentare una scuola di balletto a cui dedica praticamente tutta se stessa. Quello che rende il film molto particolare è che Lara è nata ragazza e proprio in questa nuova città sta avviando anche un percorso di transizione per diventare donna. La cosa che ci ha colpito molto, che probabilmente colpirà anche gli spettatori, è il fatto che tutte le persone intorno a Lara, sia il padre, il fratello, e i dottori, la famiglia, le sono tutti molto vicini in questa scelta. Per cui alla fine il vero conflitto che è alla base del film e che è molto appassionante è la lotta di Lara con se stessa. Però ecco, soprattutto di questi tempi, oggi in Italia, vedere il film è un film fiammingo, un film belga ambientato nelle Fiandre. Sì. Vedere appunto come in un altro paese questo genere di decisioni, tanto più quanto riguarda un adolescente, vengono sostenute, mai deprecate o osteggiate, insomma è una cosa veramente sorprendente. Ci sono alcuni aspetti che ritroviamo anche in altri film che affrontano la tematica. Da una parte l'attenzione del mondo medico che segue passo passo questa vicenda personale, dall'altra però anche casi di omofobia. Sì, diciamo appunto, come ti dicevo, nel film il conflitto più che con il mondo esterno è quasi più un conflitto interno, anche se poi ovviamente nel film ci stanno anche degli attriti, soprattutto tra la protagonista e ad esempio le compagne del corpo di ballo, che a un certo punto anche per questioni forse di competizione si creano anche delle situazioni sgradevoli. Però ecco, la forza del film rimane questo capovolgimento, diciamo, in cui viene dato quasi per scontato che sia legittimo e sostenuto il percorso di Lara, però in qualche modo questo non toglie il fatto che è anche un ostacolo psicologico molto forte per lei da superare. Per me funziona molto bene anche il parallelismo proprio con la danza, che Sì. la metafora della danza in qualche modo amplifica poi anche il passaggio, la transizione al nuovo sesso. Perché poi tutto sommato la danza, arte antichissima, consiste in quello, consiste nel forzare il proprio corpo fino a fargli fare delle cose inimmaginabili. E alla fine anche una transizione di questo genere è quello, è la cultura che opera sul corpo per trasformarlo e per fargli fare delle cose che non si potevano pensare. Ecco. Quindi questo continuo parallelismo con la danza e con lo sforzo che poi fa Lara per adeguarsi alla nuova scuola, quindi anche il sacrificio fisico di ballare sulle punte con i piedi insanguinati, eccetera, eccetera, è comunque è già una specie, appunto, fa da cassa di risonanza di poi del dramma centrale del film. Stefano, dal punto di vista stilistico, cosa ti ha convinto di più? Beh, lo stile è semplice, diretto ed come dire, è uno stile molto emotivo che segue passo passo il protagonista. E appunto è un film che punta molto sulla carica emotiva, sull'identificazione con Lara. Peraltro ci tengo anche a sottolineare che il regista è giovanissimo, è il primo film, ha 27 anni, il protagonista, che è veramente formidabile, ne ha solo 16, e anche per lui è il primo film. E anche già questo, insomma, che questa sia un'opera prima di un regista esordiente, di un attore esordiente, è già una cosa sensazionale di per sé. E poi per il resto, ecco, è un film che non ha un punto morto, non ha nessun momento di cedimento o anche di compiacimento autoriale, come dire. È un film che punta dritto al cuore dello spettatore e fa centro. Stefano, che uscita sarà? Allora, noi usciamo con 42 copie, quindi insomma è una buona uscita. Peraltro chiediamo a tutti di sostenere il film per quanto è possibile andandolo a vedere già nel primo weekend, perché comunque questo gli permetterà poi una vita più lunga in sala, soprattutto adesso che comunque escono tantissimi film ogni settimana. Quindi ecco, facciamo questo appello agli spettatori del cinema di qualità di non perdere fin da subito Girl, che comunque probabilmente sarà uno dei film di rivelazione dell'anno. Allora, ricordiamo l'uscita in sala di Girl di Lucas Daunt, in sala da giovedì 27 settembre. Un saluto e un ringraziamento grazie a Stefano Affinesi, a tutti gli ascoltatori, di Teodora Film che lo distribuirà. Stefano, a presto, un abbraccio. A presto, ciao Federico. Ciao ciao.